2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 22 e 23 febbraio 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini. Mi trovate al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, anche su Facebook oppure su Twitter. Inizio annunciandovi e anticipandovi che la prossima settimana, a partire da lunedì 24, in realtà già domenica ci saranno alcune conferenze stampa pre-evento, come si dice in gergo, comunque dal 24 febbraio ci sarà il Mobile World Congress, ancora una volta a Barcellona, quindi Barcellona sarà la capitale mondiale della telefonia mobile. Si tratta infatti del più importante appuntamento mondiale per l'ecosistema della telefonia mobile, il che vuol dire quasi tutto oramai, perché buona parte delle cose connesse alla Internet of Things, quindi anche in prospettiva futura, sono e saranno collegate via rete mobile. Quindi questa fiera sta diventando sempre più importante. Ricordo 10 anni fa, quando si svolgeva ancora a Cannes, che era un appuntamento molto più riservato sostanzialmente agli operatori di telefonia mobile e ai produttori di telefonini, ma erano insomma pochi sia da un lato che dall'altro, soprattutto si parlava di Europa, molto poco di Stati Uniti e molto poco anche di Asia. Oggi le cose sono cambiate in modo incredibile, sono passati pochi anni se pensiamo alla vita di una persona, invece è cambiata un'epoca. E direi che ogni anno cambiano molte cose, anche se effettivamente da qualche anno non vediamo delle novità, delle innovazioni determinanti per cambiare l'ecosistema, però è sempre un appuntamento molto interessante. Allora, tra i prodotti che verranno annunciati ci sono quasi sicuramente il nuovo Galaxy S5 di Samsung e un nuovo, e qui molti stanno già discutendo in rete di come sarà questo telefono, il nuovo Nokia X con sistema operativo Android. E questa sarà sicuramente probabilmente la vera notizia del Mobile World Congress, visto che Nokia, lo ricordate, è stata acquistata da Microsoft e l'utilizzo di Android, che è di Google, quindi il principale concorrente di Microsoft, è una sorta di tradimento alla piattaforma Windows Phone, però è giustificato sicuramente per la fascia di telefonini a basso costo, perché Android richiede specifiche tecniche più semplici rispetto a quelle richieste da Windows Phone. In ogni caso, molti produttori presenteranno novità a partire dai cinesi, quindi da Huawei a ZTE, poi ci sarà anche LG e Sony che presenteranno novità, poi vedremo insomma la prossima settimana quali altre novità ci saranno da raccontare. Non ci sarà, come sempre del resto, Apple, che invece sceglie, direi giustamente, di fare eventi per proprio conto. Non ha mai partecipato a questo tipo di evento. Anche HTC terrà un evento tra poco, il 25 di marzo, per presentare le proprie novità. Gli occhi sono puntati sul nuovo One, perché questo per molti è il miglior telefono in assoluto e quindi molte attenzioni sono concentrate su questo nuovo telefono di HTC. Vedremo chi saprà poi portare vera innovazione nel settore, perché come dicevo poco fa, negli ultimi anni non ci sono state novità eclatanti. Allora, riparleremo 2024 di Android, perché sarà interessante capire che cosa utilizzerà Nokia, perché è vero che Android è un sistema operativo open source che può essere personalizzato e infatti esiste per questo la Android Open Source Platform. Ma è altrettanto vero che la versione Google Mobile Services è la versione chiave in mano ed è quella che Google mette a disposizione di quasi tutti i produttori di smartphone, e questa versione è molto poco open, e anzi si dice, gli esperti dicono che negli ultimi tempi Google stia spingendo soprattutto in quella direzione per cercare di blindare sempre di più la piattaforma. Parleremo di questo perché fra i temi del Mobile World Congress rimane in primo piano quello dei sistemi operativi. Quindi si parla di iOS, si parla di Android, ma soprattutto si parla di tutta quella schiera di sistemi operativi che ancora hanno una percentuale di mercato insignificante, ma che stanno arrivando già da un po' di tempo, almeno si stanno presentando al mercato, che sono in qualche modo legati a Linux. Allora, lunedì ho un appuntamento con Mark Shuttleworth, il fondatore di Canonical e il creatore di Ubuntu, probabilmente più famoso per essere stato uno dei pochi turisti spaziali, ma invece è un grande personaggio. Sono molto contento di incontrarlo, perché molti di voi sapranno che Ubuntu è una delle più popolari distribuzioni di Linux, e anche la sua versione mobile, che è Ubuntu Touch, e anche da questo punto di vista ci saranno delle novità. A Barcellona ci sarà anche Mark Zuckerberg, sapete chi è, il fondatore di Facebook, che sicuramente farà un accenno all'acquisizione di questa settimana, cioè Facebook che ha annunciato di aver acquistato WhatsApp per una cifra iperbolica, parliamo di 19 miliardi di dollari. Sono 4 in denaro, il resto in azioni, però parliamo comunque di una cifra incredibile. Si tratta infatti della più grande operazione finanziaria nel settore dei social network. Se la confrontiamo con il circa miliardo speso per acquistare Instagram, fa ridere. Allora, molti pensano, e anche io penso, che ci sia una ipervalutazione delle aziende della rete, alimentato da banche d'affari americane, venture capital, che stanno beneficiando di questo circolo, dal loro punto di vista virtuoso, da un altro punto di vista vizioso, grazie alle quotazioni in borsa e anche alle acquisizioni, perché ci si quota in borsa, si guadagnano un sacco di soldi, poi questi soldi vengono anche utilizzati per fare altre acquisizioni, e questo denaro rientra poi nelle casse dei venture capital, che giustamente devono essere ripagati per il rischio che si prendono nel finanziare le aziende. Però quando si esagera, si esagera. Allora, giusto per capire dei numeri, di che numeri stiamo parlando, vi cito un dato. Quando Facebook si quotò in borsa nel maggio di 2 anni fa, raccolse 16 miliardi di dollari, il terzo più grande sbarco in borsa della storia americana. Quindi oggi Facebook spende, certo, una parte in azione, ma spende molto di più rispetto a quello che guadagnò con l'arrivo in borsa, perché parliamo appunto di 16 miliardi contro i 19. Un altro aspetto negativo è che queste aziende, queste grandi aziende, non fanno più innovazione, ma acquisiscono solo altre società, quindi cercano di innovare facendo acquisizioni, il che può andare bene, però per certi non è sicuramente un aspetto positivo. C'è un indubbio valore strategico in questa operazione, perché WhatsApp è la più importante fra le applicazioni di messaggistica istantanea su smartphone. Pensate che ha 450 milioni di utenti, cresce di 1 milione al giorno. Molti sono giovani, e questo è un aspetto interessante. Direi che il numero degli utenti, ma soprattutto l'età degli utenti, sono proprio le cose che servono a Facebook, cioè crescere nel settore mobile con numeri incredibili, perché ricordiamo che WhatsApp esiste solo per smartphone, quindi non esiste una piattaforma per computer, quindi sicuramente questo servirà a Facebook per crescere nel settore mobile, soprattutto nei paesi emergenti, e incrementare anche la base di utenti fra i teenager, che negli ultimi tempi stanno allontanandosi da Facebook per altre piattaforme meno complicate, più immediate, come ad esempio WhatsApp. Allora, WhatsApp per ora rimarrà un'applicazione indipendente, vedremo come verranno messe in pratica le possibili sinergie. Direi che la principale sinergia riguarda l'accesso ai dati e alle identità di WhatsApp, perché non dimentichiamoci che dietro un account WhatsApp c'è una SIM, quindi dietro una SIM c'è un numero di telefono e quindi c'è una identità. Insomma, una massa di dati incredibile con la quale è possibile fare analisi, incrociando il tutto anche con i dati di Facebook. Quindi sicuramente per gli esperti di data analytics, di analisi dei dati, di big data, c'è un bel lavoro da fare. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo dall'autorità per le comunicazioni italiana, la AGCOM, che ha presentato un'indagine conoscitiva sui servizi internet e la pubblicità online. Molti di questi dati gli esperti li conoscono, ma tuttavia è un quadro completo della situazione. Il 36% delle persone che usano internet si informa attraverso i siti web dei quotidiani tradizionali, mentre il 21% utilizza i motori di ricerca per trovare le notizie. Per il 9% invece il riferimento sono i siti delle agenzie di stampa, soprattutto l'ANSA. Per quanto riguarda la pubblicità, Google controlla quasi il 32% del mercato della pubblicità online a livello mondiale, quindi una massa di denaro incredibile, mentre in Italia la quota di mercato è compresa, questa è una stima perché non vengono pubblicati dati ufficiali, tra il 40 e il 60%. Infatti tra gli addetti ai lavori si dice sempre che per quanto riguarda la pubblicità online metà va nelle tasche di Google in Italia, un dato veramente che fa impressione. Altro dato riguarda il valore della pubblicità su internet in Italia: tra il 2011 e il 2012 è cresciuto del 7%, superando di poco 1,5 miliardi di euro, un dato che è quasi la metà della raccolta della Francia, che è 2,7 miliardi, un terzo della Germania, 4,5, e lontana dal Regno Unito, dove internet è una cosa seria e dove la pubblicità supera i 6,6 miliardi. Digital News. Secondo l'osservatorio Mobile Payment and Commerce del Politecnico di Milano, l'86% delle transazioni in Italia è fatto ancora con il contante, rispetto al 59% della media europea. Ma è una media, ci sono paesi che ci fanno veramente impallidire. Il valore del pagamento elettronico raggiunge tuttavia i 150 miliardi di euro, ancora una cifra molto bassa, però è cresciuto grazie alla crescita dei pagamenti via carta di credito. La svolta potrebbe arrivare dal cosiddetto mobile proximity payment, quindi pagamenti di prossimità, avvicino il cellulare a un POS e pago, ma il 2013 è stato un anno di sperimentazione, il 2014 dovrebbe vedere l'arrivo dei primi servizi commerciali. Attualmente in Italia ci sono 8 milioni di smartphone con tecnologia NFC, i POS cosiddetti contactless, che quindi riescono a leggere questa tecnologia NFC, ci sono anche le carte di credito NFC, sono cresciute e oggi sono 150.000. La diffusione delle SIM NFC è ancora molto scarsa, ce ne sono appena 5.000, e giusto per darvi un'idea di quanto sarebbe opportuno passare al pagamento digitale, allora, la gestione del contante consuma 50 miliardi di euro in Europa, di questi ben 10 miliardi nella sola Italia. Pensate a camion che devono spostare il denaro, la protezione del denaro, i furti del denaro contante, insomma tutto cospira verso il pagamento digitale. Insomma, ci sono veramente moltissimi vantaggi. A proposito di pagamenti elettronici, mentre alcuni stanno pensando all'NFC, succedono altre cose. Allora, Mastercard e Visa hanno annunciato il loro supporto alla tecnologia Host Card Emulation, una tecnologia che permette di utilizzare telefoni NFC per fare pagamenti di prossimità, ma senza doversi basare sulla SIM. Però finora tutte le applicazioni sperimentali per i pagamenti con NFC si basano su un elemento sicuro, il Secure Element, che sta proprio sulla SIM, e quindi se controlli la SIM controlli tutto il sistema, e quindi diciamo gli operatori telefonici controllano o vorrebbero controllare tutto il sistema, ma gli operatori che invece gestiscono i pagamenti non sono molto d'accordo. Allora, in questo modo, con questa tecnologia, vengono tagliati fuori gli operatori di telefonia mobile, con un forte impulso alla nascita di servizi di pagamento tramite cellulare. Vedremo che cosa succederà. MessageNet ha lanciato un nuovo servizio chiamato mTalk, il primo servizio disponibile sul mercato che offre la possibilità di telefonare e inviare messaggi di testo gratuitamente, senza bisogno di download o registrazioni su PC. Su smartphone e tablet Android, per il momento solo Android, è invece disponibile l'applicazione gratuita mTalk, quindi potete provarla e rendervi conto di come funziona questo sistema. Notizia che riguarda Amazon, che ha lanciato la sua offerta di video on demand streaming in Gran Bretagna e Germania. Per la prima volta questo servizio esce dagli Stati Uniti e, secondo quanto riporta il sito dday.it, il servizio dovrebbe presto arrivare anche in Italia. L'ultima notizia riguarda l'esercito sudcoreano, che svilupperà software in grado di lanciare attacchi digitali ai sistemi informatici delle centrali nucleari nordcoreane. L'obiettivo è replicare il successo del virus Stuxnet, che era stato progettato per attaccare gli impianti nucleari iraniani e che effettivamente ne ha danneggiati circa un quinto. Non si sa chi ci sia dietro a Stuxnet, ma i principali sospettati sono le intelligence americane e israeliane, ma parliamo di qualche anno fa. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. In questa puntata parleremo anche di Destinazione Italia, il decreto che è diventato legge. Ci sono alcuni vantaggi per gli operatori che posano fibra ottica e anche alcuni vantaggi per le piccole e medie imprese che investono in software, in tecnologie digitali. Ne parleremo tra poco. Adesso parliamo di videogame, un mercato impressionante in tutto il mondo, un mercato economicamente molto rilevante. Però questa settimana, partiamo da questa notizia, Sony ha annunciato di aver venduto fino all'8 febbraio scorso 5,3 milioni di PlayStation 4. Il gruppo giapponese ha superato le sue stesse stime, che erano di 5 milioni di pezzi previsti per il prossimo mese di marzo. Allora, sicuramente, come sempre, dipende da come fai le stime. Se sei molto prudente, poi quando vai sul mercato fai un grande successo. Però questo è un dato interessante non solo per Sony, ma per tutta l'industria del videogioco. Allora, partiamo dai numeri e dai dati. Marco Saletta, il General Manager di Sony Computer Entertainment Italia. Abbiamo venduto circa 5 milioni e 300 mila console, parliamo del territorio degli Stati Uniti, più quello che Sony definisce essere il territorio PAL, quindi c'è tutta l'Europa dentro, c'è un pezzo di Medio Oriente, un po' di Africa e Australia e Nuova Zelanda. 5 milioni e 300 mila console sono sopra le aspettative, come correttamente diceva lei, e con grandi aspettative che partono già da oggi per il grande lancio che avverrà durante il weekend anche in Giappone. Esatto, il Giappone è sicuramente un mercato interessante e importante. Per quanto riguarda l'Italia, che cosa possiamo dire? Per l'Italia possiamo dire che siamo molto contenti. Abbiamo lanciato la console alla fine del mese di novembre e sin dal lancio la domanda è stata di gran lunga superiore alla capacità di soddisfarla da parte di Sony. Siamo fuori stock, siamo molto dispiaciuti perché il nostro consumatore non è in grado di trovare sugli scaffali le quantità di console che avremmo voluto, che lui ci sta chiedendo. Peraltro siamo già arrivati all'obiettivo dell'anno, quindi questo ci mette da un punto di vista dei numeri in una posizione di grande soddisfazione. Quella che avete sentito è la voce di Marco Saletta, che è il General Manager di Sony Computer Entertainment in Italia, sui dati sia mondiali ma anche qualche considerazione sull'andamento del mercato italiano. Saluto Luca Tremolada del Sole 24. Ciao Luca, bentornato a 2024. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di 2024. Dunque, una delle cose che io ho pensato quando ho visto i dati di vendite di PlayStation, non essendo un espertissimo del mercato ma comprendo l'importanza economica di questo mega mercato gigantesco in tutto il mondo, ho detto: ma allora le console sono tutt'altro che morte, cioè questo è comunque un grande successo. Infatti è anche abbastanza inaspettato, nel senso che noi che seguiamo un po' questo mercato, quando dico noi giornalisti tecnologici, avevamo scommesso che le nuove console, questa sarebbe stata l'ultima grande generazione delle console. Perché? Perché esistono i cellulari, perché esistono gli smartphone, perché esistono i tablet, perché il gioco si è espanso, è un po' andato da tutte le parti. Sì. Per cui insomma pensare che esista un luogo, giardino, dove si possono costruire solo lì i videogiochi era un po' un pensiero anni 80. Invece le nuove console, Xbox One e PS4, stanno andando molto bene in questo momento, e noi l'avevamo previsto, è in vantaggio PS4. Mm-hmm. I conti, lo dico subito, li facciamo a Natale, perché insomma ormai queste macchine, cioè, il Natale hanno... precedente non valeva perché ma sono no, uscite troppo ridotte, sì, no? Li contava il prezzo, contavano tante mille cose. Le console, diciamo che funzionano se ci sono dei giochi belli, certo. Per cui vediamo in quest'anno che giochi riescono a tirare fuori e lì si capirà chi vincerà. Ah, quindi dici, al di là delle potenze, delle qualità, delle caratteristiche delle console, cioè se ci sono i giochi belli funziona la console. Sì, è il contrario delle televisioni, cioè una televisione se è bella è bella anche se anche se il programma è brutto, per cui metti, vedi Sanremo, sì, sì, certo, vedi qualcosa, è una scatola. È una scatola, sì, sì. I giochi fanno la console. Quindi dietro al successo di Sony PlayStation c'è soprattutto non tanto la macchina ma i giochi. In questo momento sì, e anche l'importanza del marchio, insomma PlayStation è un po' il sinonimo per dire videogiochi, sì. I vecchi gamers questo lo sanno. Detto questo, Xbox One, scusate, è una macchina bellissima. Per cui... Senti, le console le comprano i cosiddetti hard gamers, cioè quelli che giocano e passano molte ore della settimana a giocare, o sono diventate uno strumento popolare come lo è stato la Wii di Nintendo? Hai centrato esattamente il punto. Molto probabilmente questo grande successo di PlayStation è legato al fatto che gli hard gamer hanno risposto in massa. Xbox One, che è la rivale, ricordiamo, di Microsoft, è una macchina più interessante, che però parla tutta la famiglia, è anche un media center, anzi è soprattutto un media center, capace quindi di mettere dentro canali digitali terrestri, tante cose, per cui insomma ha un focus meno centrato su quelli che tu giustamente hai chiamato gli hardcore gamers. Sulla Wii U tutto un altro discorso, anche perché non sta andando benissimo. Sì, quindi Nintendo dovrà inventarsi qualche cosa. Sì, deve assolutamente andare a inventarsi qualche cosa, perché la nuova Wii U non ha nemmeno lontanamente... Sì. E loro hanno detto ad una recente conferenza stampa che stanno cominciando a pensare, ma qui a 2-3 anni, a cose che si indossano comunque, che hanno a che fare con la salute, il benessere, cose del genere. Insomma, diciamo questo, che Super Mario deve fare il doppio lavoro, cioè quello che molto probabilmente capiterà è che per giocare a Super Mario, mentre prima, ed è questa la grande tradizione di Nintendo, vuoi Super Mario, bene, allora ti prendi la console, perché solo lì lo trovi l'idraulico coi baffi. Adesso l'idea è quello di portarlo anche su smartphone, e questa è un una rivoluzione, è un cambiamento epocale. È sicuro, è un'ipotesi molto probabile? L'ha detto il mega presidente, l'ha fatto capire, devono ancora capire come, per cui non aspettiamoci un'app di Super Mario. E poi quello che dicevi tu, wearable technologies, per cui probabilmente si inventeranno degli oggetti particolari e strani. Senti, a proposito di smartphone, se noi mettiamo a confronto i numeri, cioè, quando parliamo di smartphone parliamo di una roba da 1 miliardo di pezzi all'anno, quindi una roba incredibile. Qua stiamo parlando di milioni di pezzi, quindi stiamo parlando di due mercati completamente diversi in termini di quantità. Si dice che lo smartphone sia diventata la nuova console da videogioco. Allora, spiegaci un po' quali sono gli equilibri tra la console e comunque il successo, la riconferma delle console, e tutto quello che sta succedendo negli smartphone e nei tablet. Cioè, valgono solo i giochettini? Ma i giochettini, poi magari abbiamo tempo di parlare anche di Candy Crush Saga, che giochettino non è, visto che sta andando a Wall Street, e molto probabilmente con una valutazione di $500 miliardi. Quello che è successo in questi anni è che insomma la piattaforma videoludica principale non è detto, o non è più detto, che sia la console. Sui videogiochi, sugli smartphone si gioca tantissimo, ci sono giochi divertentissimi, è anche facile giocare con un tablet, e quindi insomma diciamo che gli equilibri sono un po' tutti da discutere. La cosa interessante è che stanno nascendo nuove console, delle console Android molto interessanti, probabilmente anche Amazon vuole uscire con una macchina dedicata, per cui insomma il mercato è assolutamente divertente e si sta giocando le sue carte. Sì, comunque sta di fatto che il mercato del videogioco sta crescendo. Sta crescendo. Ha avuto, allora attenzione, risente della crisi delle elettroniche di consumo, per cui oggettivamente sono tassi di crescita negativo. Sta riprendendo con le nuove console, ecco, per cui da quest'anno i dati dovrebbero guardare al positivo. Dimmi qualcosa di Candy Crush, che effettivamente è un evento interessante, cioè il fatto che un'azienda che produce un videogioco abbastanza stupido vado in borsa, vanno tutti in borsa. Adesso vanno tutti in borsa, poi vedremo se continuerà a funzionare. Tu hai mai giocato a Candy Crush Saga? Devo dire una volta, ma proprio per rendermi conto. Esatto, crea dipendenza, il classico giochino che crea dipendenza, che dopo un po' comincia a sognarti le caramelle che cadono, che le vuoi fare scoppiare, è terrificante anche a livello psicologico. Però la cosa vera è che funziona da morire, c'è gente che si registra al 500° livello, tu conta che il 500° livello è quando sei un fenomeno. Su YouTube provate, mettete 500 Candy Crush Saga e trovate i video di ragazzi felici, perché sono arrivati a far esplodere non so quanti miliardi di caramelline. Tra l'altro la cosa divertente è che i signori di Candy Crush hanno anche provato a avere in esclusivo la parola candy. Sì, ci sono riusciti? No, non ci sono riusciti. Nel senso che ci sono riusciti però per una legislazione strana americana solo sul mondo videoludico. Poi bisogna vedere che cavolo hanno. Sì, tra l'altro uno dei creatori è un italiano, che Emanuele Zaccone. Abbiamo provato a intervistare, tu hai provato tempo fa, io ci ho riprovato, ma adesso, una volta, non mi ricordo qual era la scusa, in questo periodo è che sono nel quiet period, cioè quindi prima della quotazione in borsa non si può dire tutti nulla. Zitti. Tutti zitti. Perché, tutti zitti. Però. Quindi Candy Crush va in borsa a conferma, insomma, che c'è uno spazio che comunque sta crescendo e il videogioco si infila un po' ovunque. A proposito di intrattenimento legato principalmente alle console, si diceva un tempo che la console sarebbe diventata l'hub dell'intrattenimento domestico. È così? Non è così? Non lo so. L'abbiamo chiesto sempre al general manager di Sony Computer Entertainment Italia. Sì, ma anche no. Mi permetto di dirlo perché noi in Italia abbiamo appena stretto una partnership importante con Mediaset. La piattaforma di Infinity è disponibile sia su PS3 che su PS4. Stiamo lavorando per altre partnership importanti per fare in modo che effettivamente poi la console rimanga l'hub del divertimento. Dall'altro lato è vero quello che dice lei, lo sono anche gli smart TV, ma io le posso però dire che al contrario noi stiamo lavorando per mettere una PlayStation tramite il concetto del PlayStation Now in ogni televisore, in ogni tablet, in ogni smartphone da qui ai prossimi probabilmente 2 anni. Quindi è un gioco che si rincorre, no? Chi arriva prima sul device, però in realtà alla fine chi vince è quello che sarà in grado di dare i contenuti migliori. Allora, abbiamo citato gli smartphone, i tablet, abbiamo citato le console, c'è questo terzo, non so se chiamarlo incomodo, comunque, gli smart TV, quindi i televisori smart, che stanno, ormai sono tutti smart, quindi sì, stanno, non si può nemmeno dire stanno avendo successo, perché tanto se vai a comprare un TV è smart, entrano in questo mondo dell'intrattenimento domestico, sicuramente immagino non per il videogioco, perché, o meglio, è solo il display del videogioco. Ecco, tu cosa ne pensi? Cioè che le console effettivamente abbiano perso la gara verso le smart TV come hub dell'intrattenimento, o invece rappresentano una soluzione per vedersi film on demand, vedersi film via internet, giocare online, eccetera, eccetera? Ma guarda, gli americani, smart e intelligente, no? Gli americani un paio di anni fa sorridevano dicendo ma il televisore intelligente, insomma, è un po' un controsenso, il televisore non è mai, è un po' troppo. Quello che è successo e su cui si sta discutendo moltissimo è che molto probabilmente l'intelligenza l'ha proprio lasciata al televisore, nel senso che oggi con tablet, smartphone, ancora una volta con gli iTunes, quindi le Apple TV, ma anche con le piattaforme delle console, si può tranquillamente portare serie, televisione, intelligenza, app sul televisore. Per cui alcuni giornalisti tecnologici d'oltreoceano hanno detto ma abbiamo proprio bisogno di un televisore smart o ci serve solo un bel monitor? Ed è questa una provocazione eccezionale, cioè il televisore forse deve fare il televisore essere bello. Chi sta vincendo adesso secondo te? Cioè le smart TV nel loro aspetto, nel loro ambiente smart, cioè quindi con le applicazioni, io clicco magari l'applicazione di YouTube, se sono collegato a internet posso vedere video su YouTube, eccetera eccetera, poi ci sono anche Facebook, Skype, eccetera, stanno avendo successo almeno in quel lato, cioè come utilizzo, o se uno vuole un hub di intrattenimento sceglie la console? Guarda, sicuramente ha perso l'idea di social TV, cioè l'idea che io e te ci mettiamo sul divano e poi ci guardiamo. Io a un certo punto, sai che faccio? Accendo il mio Facebook e tu guardi esattamente tutti i miei amici, le cose che fai, tu puoi immaginarti un bambino con la mamma, quella roba non funziona. Sì. Però quello che funziona è il fatto che sì, la televisione andava collegata a internet. Questo assolutamente. E sì, molto probabilmente devono ancora capire di creare dei servizi ad hoc per la televisione. Non ci sono ancora riusciti, però lo faranno. Sì, stanno, diciamo, nascendo in questi mesi e vedremo sicuramente qualcosa di nuovo. Senti, prima di salutarti, diamo un'anticipazione, come facciamo ogni settimana, sulla copertina di Nova e magari anche qualche elemento che troviamo all'interno di Nova, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, che trovate la domenica assieme al Sole 24 Ore. Luca? Allora, la cover è dedicata, scusate, alle televisioni, alle università sostenibili, ai lavori green che stanno nascendo all'interno dell'università, a nuovi lavori, nuovi mestieri. È interessantissimo quello che sta succedendo. Noi riusciamo ad accendere un faro su un mondo che non è conosciutissimo. Nel paginone, nell'infografica, nella cover che sta diventando uno dei cavalli di battaglia e delle grandi novità del nuovo Nova, sì, cioè con la realtà aumentata. La realtà aumentata, c'è. Esatto. Parliamo del Mobile World Congress di Barcellona e per farlo ci siamo inventati un essere strano, cioè un telefonino, un mostriciato. L'abbiamo chiamato il telefono minide. Cioè abbiamo guardato che negli ultimi 20 anni l'evoluzione cellulare, il titolo è l'evoluzione cellulare. Cosa ci siamo inventati? Siamo andati a vedere potenza di calcolo, memoria e connessioni, come sono cambiati i telefonini negli ultimi 20 anni. E beh, insomma, la curva è interessantissima, come puoi immaginarti, e soprattutto cerchiamo di capire che cosa diventeranno nei prossimi 20 anni. Esatto. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Arrivederci. Bene, questo è 2024, adesso ci fermiamo per qualche minuto, riprenderemo tra poco, parleremo anche di cybercrime. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Trovate 2024 e anche il sottoscritto su Twitter e su Facebook, quindi cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. Ringrazio Paolo Corleone che oggi si occupa della parte tecnica e anche Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. In Italia un'azienda su 4, siamo al 23% per essere precisi, è stata vittima nel corso degli ultimi anni di crimini economici in generale. Questa è una ricerca realizzata e presentata questa settimana da PwC sui crimini, sulla corruzione, sui crimini economici, ma quello che a noi interessa è un dato più specifico, perché il cybercrime è la seconda minaccia per le aziende, quindi all'interno di questo quarto di aziende che denunciano di essere state vittime di crimini economici, bene, il 22% sono state vittime di cybercrime, quindi questi crimini sono stati portati a termine con la tecnologia nel mondo digitale. Però per parlare di questo fenomeno, che è estremamente interessante, e bisognerebbe preoccuparsi un po' di più anche a livello paese, anche i giornalisti dovrebbero parlare un po' di più di questo fenomeno. Dicevo, per parlare di questo è con noi Fabio Merello, che è partner di PwC e responsabile della Cyber Security. Benvenuto 2024. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Allora Merello, partiamo proprio da questo dato che voi avete rilevato nella vostra ricerca, aggiungendo una considerazione che mi sembra molto, molto importante su questo numero. Sì, dunque in Italia abbiamo un'incidenza sul totale dichiarata dal nostro survey di un 22% sul totale delle frodi subite dalle aziende, che è un dato rilevante, probabilmente non è completo perché, come ben si può comprendere, può esserci anche una certa reticenza da parte delle aziende a rispondere in merito a domande di questo tipo. Cioè, perché la domanda era, avete subito frodi online? Certo, quindi ci può essere una certa reticenza, ma in molti casi ci può essere anche una difficoltà di rilevazione, perché molto spesso, come poi magari diremo in seguito, molti attacchi non vengono proprio rilevati dalle aziende. Non ci si accorge che c'è un attacco? Non ci si accorge perché un attacco vero è fatto per essere non visto. Un attacco vero è fatto per non essere non visto. Un attacco legato al furto di informazioni, per esempio, non deve essere rilevato da chi è oggetto dell'attacco, perché si interessa essere presenti nei sistemi dell'azienda oggetto per più tempo possibile, per avere più tempo di fare cose illecite. Quindi se un cybercriminale è bravo, non si vede. Esatto. Paradossalmente sono più evidenti gli attacchi di tipo attivista, che sono attacchi che sono fatti per essere visti, ma paradossalmente, pur portando danni rilevanti anche di tipo reputazionale, sono tecnicamente più facili da gestire perché si vede quello che viene fatto. Quindi un quarto delle aziende italiane ha dichiarato, secondo lei è una percentuale che è vicina alla realtà o è molto più elevata? Secondo me la realtà è più elevata. La realtà è più elevata, diciamo che in quest'ambito spesso si accetta un 50% di tolleranza su rilevazioni di questo tipo. Cioè, quindi a questo 23% ci aggiungiamo un altro 10? Ce ne può aggiungere altrettanto, è facile che possa essere addirittura così. Altrettanto? Sì. È interessante. Quando parliamo di frodi online, concretamente poi a cosa facciamo riferimento? Cioè questi attacchi fatti alle aziende, mirano a far cosa? A rubare informazioni, a rubare soldi, a rubare cosa? Allora, diciamo che un'organizzazione criminale che perpetra un attacco tipicamente è intenzionata a far soldi. Diciamo che un obiettivo primario sono le istituzioni finanziarie, banalmente perché lì stanno i soldi. Una seconda categoria è legata al furto di know-how, di conoscenze, di dati, di informazioni per essere rivenduti. Una terza categoria molto rilevante è legata ad attività di ricatto, nel senso che la società, diciamo l'organizzazione, sottrae delle informazioni critiche oppure banalmente le cripta sui sistemi della società obiettivo, dopodiché chiede del denaro per poter restituire queste informazioni o renderle nuovamente disponibili. Sì, questo mi è stato detto più volte, cioè ci sono dei criminali che riescono a entrare nei miei sistemi, mettono dei lucchetti, diciamo, alle mie informazioni. Io non riesco più a entrare nelle mie informazioni e questi mi dicono: se vuoi riappropriarti delle tue informazioni ci devi dare tot no, soldi. Le appare direttamente una maschera che ecco, dice hai tempo una settimana, deposita questa cifra su questo conto corrente, altrimenti viene cancellato tutto. Queste sono le... Ovviamente vengono nascoste informazioni critiche per l'azienda, quindi... Certo, diciamo, visto che buona parte dei dati oramai, e la tendenza è quella di digitalizzare sempre di più i dati, chiaramente se uno si trova bloccata a metà dell'informazione dell'azienda mette a rischio la produzione, insomma il... Assolutamente. Oltre al... al settore finanziario, che mi sembra di capire sia quello più colpito? È uno dei più colpiti. Quali altri settori sono colpiti dalle vostre rilevazioni? Beh, diciamo che è molto rilevante il settore industriale, dove sono custodite tipicamente informazioni importanti e rilevanti. Nell'ambito, in Italia in particolare, è molto rilevante il mondo delle piccole e medie imprese, che paradossalmente da un lato posseggono know-how di eccellenza in alcuni casi, che interessa molto a organizzazioni che possono volerlo rivendere a dei competitor, mentre d'altro canto le piccole e medie imprese soffrono di un certo ritardo a livello di adozione di soluzioni adeguate e anche di una certa consapevolezza. Ovviamente anche il momento economico non aiuta, perché come ben sappiamo ci sono problemi a fare investimenti e quindi in questo momento assistiamo proprio a una divaricazione fra le pratiche di attacco da parte delle organizzazioni criminali e le capacità difensive delle aziende, specialmente quelle più piccole. Sì. Senta, soprattutto le aziende più piccole, a livello di sicurezza, potrebbero trarre dei benefici usando di più il cloud? Ma dunque... Capisco che è difficile dare una risposta sì, no, però cerchi di semplificare. Certo, diciamo che il cloud, sul cloud c'è un grosso dibattito, no? Nel senso che le aziende hanno il timore tipicamente che portando le proprie informazioni all'esterno, delegando la gestione a qualcun altro, possono perdere il controllo e renderle meno sicure. Diciamo che da un punto di vista tecnico e gestionale è un falso problema, nel senso che un buon cloud gestito in maniera opportuna garantisce gli stessi livelli di sicurezza diciamo, forse anche superiore nell'ambito di una piccola e media impresa rispetto a una gestione interna delle informazioni. La realtà è che il problema normalmente non è tecnologico, ma è più legato alla parte persone, organizzazione e processi. Nell'ambito della sicurezza, anche se c'è una scarsa consapevolezza di questo, l'anello debole è quasi sempre l'aspetto legato alla gestione del personale, alle persone, ai comportamenti. Le aziende investono moltissimo in tecnologia, però sono meno attente a quelli che sono poi i comportamenti delle persone che utilizzano questa tecnologia. Quindi passano gli anni, ma questo rimane uno dei problemi perché... Assolutamente. Diciamo che, anzi, sì, in questi ultimi anni si è amplificato, perché la crescita della rete, la disponibilità da parte di tutti i terminali intelligenti ha reso in qualche modo più facile all'interno del sistema perpetrare dei crimini. E i singoli... Certo, avete più capillare, quindi sono molti più punti d'attacco. Noi abbiamo i ragazzi che fin dalla l'età nella quale i ragazzi utilizzano smartphone e terminali intelligenti si è abbassata in maniera significativa senza che abbiano una vera consapevolezza di cosa significhi. Sarebbe importante passare anche attraverso una fase educativa che parta dalla scuola, per esempio, che sin dalla giovane età insegna determinati principi utili a utilizzare in sicurezza i dispositivi, che quindi poi aiuta le persone nel percorso formativo e poi professionale a essere preparati a utilizzare questi strumenti nel modo più opportuno. Sì, diciamo che noi culturalmente come paese siamo un po' refrattari alle procedure e quando parliamo di cyber sicurezza, la procedura è tutto, probabilmente. Ma diciamo che è vero fino a un certo punto. In qualunque attacco, anche il più sofisticato, include diversi metodi di approccio nelle diverse fasi di attacco, e molto spesso alcuni sono molto semplici, perché in realtà è importante essere efficaci, non complessi, e quindi utilizzano metodi che pesantemente insistono sulla parte comportamentale e non necessariamente sono sofisticati tecnologicamente. Mi fa un esempio? Le faccio un esempio. Se io per esempio voglio, lei è un amministratore di sistema di un'azienda, quindi ha delle credenziali di accesso con dei privilegi. Certo. Io analizzo la sua posizione sui social, su Facebook per esempio, io posso identificare le sue passioni, identificare i suoi amici. Quindi posso confezionare una mail finta da parte di un suo amico, finta nel senso che non è il suo amico che le manda, che sì, magari le fa vedere la fotografia dell'ultima canna da pesca, dell'ultimo oggetto che a lei piace. Sì. Lei clicca su questa fotografia, in questa fotografia è presente un agente infettivo che le infetta il computer e che le sottrae queste credenziali privilegiate attraverso le quali chi vuole perpetrare attività illegali comincia ad accedere ai sistemi della sua azienda. E ci sono degli amministratori di sistema così ingenui? Ce ne sono. Ah. O perlomeno, sempre nelle aziende viene chiarito quali che sono i criteri da seguire nell'esporre le proprie informazioni personali all'interno dei social. È anche sbagliato non esporre le proprie informazioni sui social, perché l'identità digitale può essere anche rubata. Sì. In molte aziende esistono degli uffici preposti che per il personale apicale piuttosto che per il personale critico gestiscono l'impronta digitale sui social. Senta, l'atteggiamento medio da quello che lei vede, insomma, al di là di questa ricerca che voi avete realizzato, l'atteggiamento medio che lei vede tra le aziende è come succede ad esempio in ambito assicurativo, ma tanto a me non succede. Poi invece succede. Vede, la difficoltà in quest'ambito è che, dato che gli attacchi più pericolosi sono fatti per non essere visti, è difficile in un'azienda dire: guarda che forse sei sotto attacco e non lo sai, ti posso aiutare a capire se lo sei. Sì. Quindi in generale c'è consapevolezza della possibilità, non c'è la consapevolezza dell'essere sotto attacco. Sì. Quindi sono aziende che hanno già dei sistemi interni che consentono di gestire queste situazioni, altre che devono ancora capire come fare. Tenga presente che in quest'ambito è necessario andare verso un approccio di tipo quasi biologico. Gli attacchi sono talmente sofisticati che è quasi impossibile per un'azienda essere assolutamente certa di tenere al di fuori ogni tipo di attacco. Quindi si va verso un approccio di tipo quasi biologico. Cioè, il nostro organismo tende a tenere fuori le infezioni, però accetta anche che entrino all'interno e poi le combatte con i sistemi immunitari. Allo stesso modo, alcune aziende già lo fanno, assume state of compromise, assumono di poter essere oggetto di intrusione, che le intrusioni possano avvenire o siano già avvenute, e quindi lavorano all'interno dei propri sistemi per capire se ci sono delle intrusioni in corso. Tenga presente che questi agenti infettivi sono molto sofisticati, sono pilotati dall'esterno, si nascondono, capiscono se sono ricercati, mutano, si spengono quasi, sono attacchi di tipo che noi identifichiamo come low and slow, quindi a bassa intensità operativa, molto lenti, quindi è veramente molto difficile scovare. Senta, i cybercriminali stanno dove le leggende ci dicono, cioè in paesi dell'est europeo, in Cina, eccetera, o sono anche in Italia? Cioè, quindi, come dire, magari ce li ho a fianco all'azienda. Guardi, ormai si parla di reti di organizzazioni criminali transnazionali. Sì. Quindi si tratta di organizzazioni quasi aziendali, molto ben finanziate, molto ben organizzate, molto competenti. È molto difficile identificare la loro nazionalità da questo punto di vista. Però potrebbero essere tranquillamente anche in Italia. Potrebbero esserci persone anche in Italia che fanno parte di queste organizzazioni. Pianificano molto bene le loro azioni, identificano con calma i loro obiettivi, riescono a condurre operazioni utilizzando anche strumenti tecnologici non rilevabili dagli strumenti standard, perché per esempio gli antivirus identificano solo virus già noti, perché funzionano con un meccanismo a impronta, quindi identificano un virus già analizzato e quindi vedono se questo oggetto è presente nelle macchine. Ma se io voglio condurre un attacco redditizio, quindi che mi, penso che mi possa portare molti soldi, mi confeziono un vettore di attacco ad hoc, quindi nuovo, unico, sì, che non potrà mai essere rilevato. Senta, faccio una domanda che faccio spesso a chi si occupa di questo tema. Nel mondo reale ci difendiamo dai criminali un po' per conto nostro, mettendo una buona porta, un buon lucchetto, magari un sistema d'allarme, però un ruolo importante ce l'hanno le forze dell'ordine. Qui come cambiano i giochi? Cioè valgono le stesse regole? Una parte importante la deve fare l'azienda e si deve proteggere da sola, e un'altra parte, poi mi dice lei quale parte la deve giocare il sistema nazionale, quindi le polizie, le forze dell'ordine, lo Stato nella sua organizzazione? Diciamo che in realtà si lavora su tre livelli. È molto importante che il singolo si protegga, quindi come dicevo all'inizio si parte dal singolo, la consapevolezza è legata alla singola persona per se stessa, per la propria vita privata, e poi è importante portare questa consapevolezza in azienda. È importante quello che fa l'azienda. L'azienda deve portare la propria difesa in termini di cyber security a livello di strategia di business. Sì, quando deve parliamo di la interrompo per dire, quando parliamo di singolo vuol dire che il singolo deve capire che deve usare le password per qualsiasi sistema, deve fare log off quando esce dai sistemi, deve cambiare le password. È molto spesso una scocciatura, ma è fondamentale. No, io intendevo addirittura il singolo a livello individuale nella propria vita privata. Sì, sì, ma infatti, perché molto spesso questi fenomeni di attacco partono dal privato del dipendente. Sì, sì. Poi, vuol dire, uno è giusto che protegga anche i propri asset, gli accessi ai propri conti correnti. Quindi si deve partire da questo livello, riconoscere email diciamo finte o phishing che riguardano anche, ripeto, la vita privata del singolo, è molto importante, perché diciamo che questo aiuta la consapevolezza della persona che poi porta in azienda. C'è poi il livello aziendale, dove queste ci sono, diciamo che la cyber security deve diventare parte della definizione della strategia aziendale. Se noi assumiamo che siamo sempre sotto attacco e possiamo avere agenti infettivi all'interno, questo vuol dire che dobbiamo proteggere in maniera molto forte le cose importanti, gli asset importanti, i servizi, le informazioni, probabilmente meno altre, perché non si può investire, non abbiamo magari soldi per investire su tutto. Qualunque processo di cambiamento, che sia organizzativo, di processo, di sede, tecnologico, deve essere fatto integrando la parte di sicurezza. A livello invece governativo, beh, questo è un punto molto importante. Diciamo che l'azione governativa, a fianco delle normali attività legate ai servizi, quindi di controllo e prevenzione, è importante che faciliti, in un'ottica di partnership pubblico-privato, l'adozione di soluzioni condivise fra le aziende, che faciliti lo scambio informativo attraverso tavoli reali o virtuali. Virtuale, ma questo succede? Diciamo che questo in alcuni, sincero, paesi, eh? Allora, in alcuni paesi questo succede, sì, per esempio negli Stati Uniti piuttosto che nel Regno Unito si stanno già adottando prassi molto interessanti in quest'ambito, anche loro stanno maturando la consapevolezza e stanno adottando questi strumenti, sono sulla buona strada. In Italia molto onestamente siamo un pochino in ritardo da questo punto di vista. Ma noi siamo in ritardo probabilmente per una disorganizzazione del nostro Stato su alcuni aspetti, ma anche perché oggettivamente siamo tra i paesi meno attaccati dal cybercrime, cioè gli Stati Uniti oggettivamente sono molto attaccati, ci sono notizie che anche recentemente sono andate nelle prime pagine dei portali internet perché ci sono stati degli attacchi dove sono state rubate, che sono milioni di credenziali di milioni di clienti di alcune aziende. Per quanto ci riguarda vale quello che dicevamo poco fa, cioè non ce ne stiamo accorgendo, quindi per quello non ne parliamo. Allora, sono alcune considerazioni da fare. Ovviamente chi attacca cerca di attaccare le aziende più redditizie, quindi le aziende più grandi, tipicamente americane, sono più redditizie dal punto di vista di un attacco. Noi siamo più piccoli e quindi da questo punto di vista siamo relativamente meno appetibili. Questo non vuol dire nulla, perché potremmo essere usati, come per altri è già successo, come piattaforma di attacco verso altri paesi. Sì, perché lei mi diceva prima di andare in onda che ad esempio Roma è la seconda città al mondo per computer infetti. Uno studio di un'azienda privata riporta il fatto che Roma sarebbe la seconda città al mondo per PC infetti. Quindi, dopo Taipei. Un sacco di gente che non sa nemmeno che il proprio computer è in mano a criminali che la usano per come piattaforma, come d'attacco. Parte di una rete di attacco verso altri. Sì. Quindi ci può essere sicuramente anche un problema di rilevazione in quest'ambito. E quindi diciamo che nel mondo cyber è difficile ritenersi al riparo ritenere di far parte di una nicchia fortunata non oggetto di questo tipo di fenomeno, anche perché è assolutamente transnazionale, quindi certo. Il problema nostro è che non abbiamo ad oggi per l'Italia non ci sono nemmeno rilevazioni ufficiali di dati a riguardo. Sì, sì. Le faccio fare un'ultima considerazione. Lei ritiene che almeno le nostre grandi aziende, quelle che hanno la proprietà intellettuale più preziosa, quelle della moda, del design, di tanti settori in cui noi siamo effettivamente leader, sono a vedere le ricerche, scopre che noi siamo leader in 700 nicchie di mercato e abbiamo aziende che ancora oggi competono molto bene nei mercati internazionali. Insomma, in questi settori lei ritiene che ci sia consapevolezza, che quindi la protezione, cioè le porte blindate digitali, diciamo così, sono ben strutturate, o anche in quel caso c'è molto da fare? Allora, le grandi aziende sicuramente sì, hanno fatto molti investimenti, sono ben strutturate, quindi io ritengo che le grandi aziende già affrontino la tematica nei modi dovuti. Corretti. È diverso il caso per le aziende più piccole, per le PMI, come dicevo prima, anche quelle ad alto valore aggiunto. In quel caso, secondo me, si corrono maggiori rischi. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi. Ci sono molti temi di cui potremo anche riparlare, perché potremo parlare per molto tempo. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci. È diventato legge il decreto destinazione Italia, quindi sono legge i voucher da 10.000 euro per le piccole e medie imprese che acquistano software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività banda larga e ultra larga. Viene poi riconosciuto un credito d'imposta del 65% fino a 20.000 euro alle piccole e medie imprese o ai consorzi di piccole e medie imprese che fanno interventi su reti fisse o mobili volti a garantire connessioni da 30 megabit in su, quindi per favorire la diffusione della banda larga. Ci sono poi semplificazioni e agevolazioni per gli scavi di reti di telecomunicazioni, quindi nuove norme che vanno ad arricchire il famoso regolamento scavi di cui si parla da mesi, e queste sono sicuramente tutte buone notizie per la diffusione della fibra ottica, ma ci sono anche altre agevolazioni di carattere amministrativo, diciamo così. Sono molto soddisfatti ad Asso Provider. Saluto Dino Bortolotto, che è il presidente di Asso Provider. Benvenuto a 2024. Grazie. Dunque, voi avete accolto positivamente questa novità, che consiste in cosa? Insomma, c'è una semplificazione burocratica per realizzare impianti per poi portare fibra ottica, ma in modo più specifico qual è la novità? La novità è la riduzione dell'impatto economico richiesto ad un soggetto che voglia infrastrutturare. Viene notevolmente ridotto l'importo necessario per poter accendere fibra ottica. Le tasse che uno dovrebbe pagare, in pratica? Sì, il contributo amministrativo annuale che un operatore deve pagare. E questo, secondo il vostro parere, dovrebbe favorire la posa di fibra ottica in tutta Italia? Sì, dovrebbe rendere possibile alle migliaia di operatori di Internet Service Provider già presenti di dedicarsi anche a questa attività. Molti dei nostri colleghi già lo fanno, hanno già iniziato a farlo nonostante i contributi amministrativi precedenti a questa modifica fossero alti, e molti hanno desistito perché chiaramente costituivano una barriera economica di ingresso significativa. Stiamo parlando, giusto per fare due cifre, di che tipo di taglio, quindi diciamo la semplificazione e soprattutto la riduzione di questa imposta, di quanto è? È per una città che sia superiore ai 200.000 abitanti vuol dire passare da 55.000 euro all'anno a 300 euro ogni 1.000 utenti. Quindi 300 euro, diciamo, utenti collegati? Utenti collegati, utenti serviti. Quindi se io ho 2.000 clienti sono 600 euro, se ne ho 4.000 sono 1.200 euro, eccetera, eccetera. Esattamente. Perché voi dite che, beh, allora chiaro, l'impatto economico è decisamente inferiore rispetto a questa follia dei 55.000 euro all'anno, fino ad un certo livello, perché forse ad un certo, se io collego molti, molti utenti, molti clienti, supero i 55.000 euro. Sì, e infatti l'emendamento che è stato approvato introduce semplicemente una fattispecie in più rispetto a quelle già presenti, e questa fattispecie si esaurisce a 50.000 utenti serviti. Dopodiché entrano in gioco i vecchi contributi, sì, amministrativi, sì, sì, che quindi, chiaramente, diciamo, sono più vantaggiosi. Sì, quindi diciamo, certo, certo. Quindi diciamo che favorisce i piccoli impianti, i piccoli operatori. Certo, in pratica abbassa il gradino d'ingresso, mentre prima se io volevo effettuare cablaggi in fibra ottica, accendere fibra ottica in una città superiore ai 200.000 abitanti, dove iniziavo istantaneamente ad avere un costo annuale di 55.000 euro, il che vuol dire che un'azienda nascente doveva avere come minimo un'ipotesi di fatturato intorno al 1.000.000 di euro. Con questa modifica il fatturato iniziale si riduce notevolmente e quindi facilita approcci più, sì, diffusi. Sì, sì. Non entriamo nella ratio del provvedimento, nel senso che uno potrebbe domandare, ma non esiste risposta se non la follia di questo Stato, perché uno dovrebbe pagare allo Stato oneri per mettere fibra ottica, visto che è un beneficio al sistema paese. Comunque lasciamo perdere, anche perché non avremo appunto una risposta. Voi pensate ad Asso Provider che effettivamente, concretamente, questo potrà favorire impianti, soprattutto immagino in scala piccola, che ne so, immagino anche un distretto di piccole aziende che vogliono dotarsi di fibra ottica? Certo, sì. Questa è una delle chiavi di lettura e speriamo che venga percorsa. Diciamo che siamo abbastanza certi che verrà percorsa. Speriamo che venga percorso anche un altro profilo, che potrebbe essere quello di un gruppo di utenti che decidono di infrastrutturarsi e di accedere in modo cumulativo a risorsa internet disponibile nelle vicinanze. Quindi, traduco, cioè se c'è un gruppo di cittadini che abitano vicini, potrebbero rivolgersi a un piccolo operatore e dire: portami fibra ottica, perché qui siamo 15 cittadini che vogliono la fibra ottica. Sì, potrebbe essere questo. Potrebbe anche essere che i cittadini realizzino quella che potremmo chiamare una cooperativa per le telecomunicazioni. Diciamo che vorremmo veder realizzato quanto accade nei paesi del nord, dove vi sono cittadini che si organizzano, specie nelle zone rurali che non vengono raggiunte dai grandi operatori, realizzano la propria improprio scavi, posa di fibre e quant'altro, e arrivano al primo punto in cui possono scambiare traffico con operatori, e quindi in modo autonomo si organizzano per sopperire a una mancanza e vi riescono in modo egregio. Bene, sicuramente insomma di questo potremo riparlare. Grazie a Dino Bortolotto, a presto e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. E così chiudiamo questa puntata di 2024. Prima di salutarvi definitivamente, almeno per questa settimana, vi ricordo che il famoso aggiornamento delle quote del compenso per coppia privata, ne abbiamo parlato tantissime volte, sapete che quando andate ad acquistare un terminale mobile come uno smartphone oppure un computer, un hard disk, molti strumenti che permettono di riprodurre file multimediali, beh, noi paghiamo una quota, non ce ne accorgiamo, ma nel prezzo finale paghiamo una quota che va destinata, che i produttori raccolgono e poi versano nelle casse della SIAE, che poi la ridistribuisce ai detentori di diritti, con la presunzione che noi prima o poi facciamo una copia di un contenuto che abbiamo acquistato. Allora io compro una canzone, mi faccio una copia, però per ripagare l'autore di questo presunto danno, perché invece di comprare un'altra canzone faccio una copia per uso privato che è consentito dalla legge, viene raccolto questo compenso per copia privata. Insomma, al di là del se sia giusto o no questo meccanismo, che secondo me ormai è medievale, però al di là di questo dibattito, l'ormai ex ministro della cultura Brai avrebbe dovuto fare questo aggiornamento, quindi decidere se era il caso di aumentare queste copie, così come i detentori dei diritti sostenevano e auspicavano. Bene, a questo punto tutto questo decreto di aggiornamento non è stato firmato, il tutto passa nelle mani del neo ministro Franceschini, che appunto si trova tra i tanti dossier anche questo. Cercheremo di chiamarlo, intervistarlo e sentire il suo parere, magari lasciandogli qualche giorno per meditare sul da farsi. C'era anche una ricerca che l'ex ministro Brai aveva fatto realizzare, vedremo se Franceschini si baserà anche su questa ricerca. Questo è 2024, da domani, direi molto presto, perché domani mattina la prima conferenza stampa, o meglio le prime due in contemporanea, Sony e Nokia, si svolgono a partire dalle 8:30, quindi comunque da domani mattina inizia il Mobile World Congress di Barcellona, noi saremo lì a seguirlo, quindi seguiremo tutte le conferenze stampa, avremo un po' di interviste con alcuni personaggi chiave, sempre un appuntamento molto interessante per scambiare alcune opinioni. Dicevo, domattina prima conferenza stampa, già oggi ci sono state alcune pre-conferenze stampa, ma domattina Nokia, e come dicevo all'inizio della trasmissione, sicuramente Nokia potrebbe essere una delle notizie di questo Mobile World Congress, se annuncerà effettivamente questo nuovo terminale con sistema operativo Android, che è un po' strano per un operatore che appartiene ad un'azienda come Microsoft che ha il proprio sistema operativo. Beh, sicuramente ne riparleremo, questi sono argomenti molto interessanti, con i nostri ospiti la prossima settimana. Io vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, grazie per aver scaricato questa che è la versione podcast di 2024, avete trovato anche alcuni contenuti aggiuntivi, le nostre interviste in versione integrale rispetto a quello che è andato in onda. Vi aspettiamo su Radio 24 dalla prossima settimana, sabato a partire dalle 15, la domenica alla sera a partire dalle 23, oppure come sempre nella versione digitale con il podcast di 2024. Grazie ancora e appuntamento alla prossima settimana. 2024.